e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti e buona settimana a voi che ci ascoltate, a te Deborah, sì. Abbiamo Paolo in regia, Marco, Laura e anche agli amici vicentini che mi hanno accolto, abbracciato, festeggiato, tutti mi hanno detto saluta Deborah, un bacio a Deborah, insomma. No, pochi baci andiamo. Stamattina perché li contamino, quindi grazie per avermi passato la tua influenza, quindi sono molto grata, sappi che se morirò in diretta stamattina devi imbarcarti di tutto il programma da sola, la scaletta no. Ce l'hai? Ce la fai? No, mi raccomando, stai su, eh. Ce la faccio anche stamattina. E allora direi, facciamo una cosa. Per concludere prima, iniziamo il prima possibile. Via. Andiamo. Iniziamo come sempre dando uno sguardo ai mercati finanziari. La settimana si apre in maniera contrastata. In Europa abbiamo un quadro negativo, meno 0,3% a Parigi, Francoforte meno 0,4%, Londra meno 0,48%, Milano invece leggermente positiva, più 0,08%, anzi fino a poco fa guadagnava quasi mezzo punto percentuale. Spingono i titoli bancari stamattina dopo la maxi fusione sancita nelle fine settimana dalle assemblee dei soci del Banco Popolare e della Banca Popolare di Milano. Il nuovo grande soggetto bancario nascerà ufficialmente il 1 gennaio dell'anno prossimo, ma anticipo già ai nostri ascoltatori che già domani ce ne vorremmo occupare a cuore Denari per capire che cosa cambierà soprattutto per i clienti di queste due banche e per appunto i piccoli risparmiatori. I migliori titoli di Milano stamattina, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 3,22%, Unipol Sai più 3%, Generali più 2,29%, Unicredit più 2%, è in trattativa per la cessione di Banca Pecao, Ubibanca più 2%, Unipol più 1,36%, Mediobanca più 1,29%, le interessate all'aggregazione, il Banco Popolare stamattina in avvio faceva quasi più 5 punti, adesso fa un rialzo di un punto percentuale, mentre è addirittura leggermente negativa Pop Milano, non leggermente, anzi vedo che scivola adesso, meno 3%. È peraltro una settimana molto ricca di eventi finanziari, è la settimana della Banca Centrale Europea, oggi arrivano tantissime trimestrali dagli Stati Uniti, Bank of America, IBM e poi anche molti dati macroeconomici, fra cui la produzione industriale. Per quello che riguarda invece altri temi finanziari importanti, fra un po' approfondiremo il lancio che parte oggi, il decimo collocamento del nuovo BTP Italia. Prima di parlarne però, volevo raccontarvi anche di un altro evento che c'è questa mattina a Roma, non so perché noi non siamo state invitate, Nicoletta. Guarda, magari non ci è arrivato l'invito, ma ecco, volevano farlo, si sono una svista. Però io la segnalo lo stesso, senza nessuna recriminazione, a parte gli scherzi. Alle 14.30, allo Spazio Tiziano a Roma, c'è il premio Amico del Consumatore, dedicato quest'anno al tema della legalità. È un evento che si inserisce nella sezione Risonanze della Festa del Cinema di Roma. Parteciperanno due esempi decisamente autorevoli di legalità in Italia, i magistrati Raffaele Guariniello e Giancarlo Caselli, che ritireranno personalmente il premio assegnato dai consumatori dal Codacons per una carriera dedicata alla legalità. Fra i soggetti che saranno premiati per l'impegno in favore dei cittadini appunto della legalità figurano anche la Polizia Postale, i NAS, Autostrade per l'Italia, la Coldiretti e i sindaci di 23 comuni italiani che hanno sottoscritto la carta della legalità promossa dal Codacons. Forse non ci hanno convocato perché non abbiamo ancora sottoscritto questa carta, ma insomma se ce la proponete noi sottoscriviamo volentieri. Allora, come vi dicevo, andiamo invece all'evento di oggi, uno dei più importanti della finanza italiana. Da oggi a giovedì 20 ottobre è possibile sottoscrivere la seconda e ultima emissione per quello che riguarda quest'anno del nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e pensato qualche anno fa, quando eravamo nel caos dello spread che era volato alle stelle, pensato proprio in quel frangente per il risparmiatore retail, per il piccolo risparmiatore italiano, anche se in realtà poi alle adesioni possono ovviamente partecipare e lo faranno in massa gli investitori istituzionali. Buongiorno a Pietro Poletto, Borsa Italiana, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Allora, si parte oggi, come al solito abbiamo due fasi, da oggi a mercoledì la possibilità della sottoscrizione è aperta all'investitore appunto al piccolo, ai retail, dicevamo, la seconda fase invece nella mattinata del 20 ottobre riservata agli investitori istituzionali. Che caratteristiche ha questo secondo BTP Italia del 2016? Beh, intanto siamo arrivati alla decima emissione di BTP Italia, per cui un prodotto ormai ben conosciuto dagli investitori privati, che come sapete è collocato direttamente tramite la piattaforma di Borsa Italiana, modalità diretta, per cui una modalità innovativa che è ormai diventata un po' uno standard di mercato utilizzato anche da altri soggetti. Allora, BTP Italia ha una durata di 8 anni, ha un tasso minimo dello 0,35 che verrà comunque confermato a fine di collocamento, più ovviamente l'inflazione qualora ci fosse. In questo momento siamo in una fase di inflazione molto bassa. Esatto, infatti la domanda però, è proprio questa. Ecco, però ovviamente la durata è anche 8 anni, per cui si può anche pensare, ovviamente questo è un prodotto, lo possiamo definire difensivo proprio perché ci consente, essendo indicizzato, di beneficiare dalle eventuali rialzi inflattivi che ci possono essere nel corso della durata della vita del prodotto. Ecco, Mario Draghi però, Poletto, fa di tutto naturalmente per combattere la tendenza deflazionistica che c'è in Europa, ma nel caso in cui tutte le sue misure non avessero successo e se ripresenti il pericolo di scivolare in un territorio di deflazione, quindi di inflazione negativa, protegge anche da questo titolo? Beh, questo protegge perché quantomeno ha un floor che al di sotto del quale non si può andare, per cui questo è anche un qualcosa di positivo ulteriormente, oltre al fatto che, come sappiamo, per l'investitore retail la fase di collocamento, che è partita stamattina, che può durare fino a mercoledì salvo chiusura anticipata, avviene senza commissione di collocamento e, come ricorderemo, c'è anche il cosiddetto premio fedeltà qualora l'investitore retail lo tenga fino a scadenza dello 0,40. Avete già dei dati sulle sottoscrizioni fino a quest'ora? L'ultimo dato che ho ricevuto, siamo sui 300 milioni e 4.000 contratti negoziati. Ok, bisognerebbe vedere appunto in un'altra emissione del passato alla stessa ora. Più o meno siamo in linea con quella dell'ultima, certo, di quest'anno. Allora, prima di quest'anno. Venerdì scorso il Ministero dell'Economia ha comunicato il tasso cedolare annuo minimo garantito. Quanto ammonterà, Poletto? Allora, 0,35, ovviamente questo è il minimo garantito che potrà essere confermato o alzato a chiusura del collocamento. Come giustamente diceva, dopo questa prima fase che dura da oggi fino a mercoledì, salvo chiusura anticipata dedicata solo all'investitore privato, nella giornata di giovedì c'è la fase dedicata agli investitori istituzionali. Come sappiamo, l'investitore istituzionale, in particolar caso fondi pensioni, assicurazioni e quant'altro, sono interessati a prodotti di questo tipo, specialmente con la durata ovviamente sempre più lunga, questo sono 8 anni, per cui può riservare un interesse per questa tipologia di investitori. Ricordiamo anche l'interesse suscitato dalla recente emissione del BTP a 50 anni, che è stato richiesto con 3 volte l'offerta. Esatto, infatti ne sono stati collocati, lo ricordiamo, 5 miliardi a fronte di una richiesta arrivata dal mercato internazionale per ben 18 miliardi, un risultato che ha sorpreso anche le aspettative di tutti, compresa quella di Maria Cannata, che è il capo del debito pubblico appunto presso il Ministero dell'Economia, e quindi vedremo se anche per questa emissione un po' si registrerà la stessa tendenza. Peraltro questo dura 8 anni, dicevamo, Poletto, ed è questa la differenza più importante rispetto alle primissime emissioni, perché i primi BTP Italia duravano 4 anni. Anche con questa iniziativa di farlo diventare di durata 8 anni, appunto segue l'iniziativa del Ministero del Tesoro di allungare l'età media del debito italiano. Siamo intorno ai 7 anni in questo momento. Beh, ovviamente questa è una strategia ben chiara e ben comunicata dal Ministero del Tesoro. Ovviamente quando siamo partiti con i primi BTP Italia la struttura dei tassi era diversa, per cui si è ridotta, e per cui anche per poter offrire un minimo di rendimento bisogna allungare anche la durata dell'investimento. Io faccio un quizzone, vediamo se mentre poi tu andrai in onda con la parte di cuore, i nostri ascoltatori li distraggo un attimo facendoli ricercare anche le notizie sui primi BTP Italia. Chiedo agli ascoltatori se si ricordano quando è avvenuta la primissima emissione e quanto raccolse appunto quella prima emissione. Ebbe un discreto successo, in realtà poi ce ne furono altre di consenso molto più ampio. Ricordo per esempio che l'emissione del novembre 2013 raccolse ben 22 miliardi di euro. euro, quella dell'aprile 2014-20, poi in passato quella dell'aprile 2013 17 miliardi, ottobre 2012 18 miliardi, altre invece ammontare molto inferiori. Poletto, da questa che cosa ci aspettiamo ragionevolmente? Ma intanto facciamo un chiarimento, perché prima queste emissioni che hanno avuto un grandissimo successo, il Ministero del Tesoro non aveva messo un cap, cioè non aveva accolto qualsiasi richiesta che veniva dal mercato, no? Per esempio l'ottobre 16 che è in scadenza in questi giorni aveva raccolto oltre 18 miliardi. Sì. Nelle ultime emissioni il Ministero del Tesoro ha deciso di inserire, come dire, una sorta di riparto per quanto riguarda la parte istituzionale, per cui evidentemente in base alle esigenze di funding del Tesoro può decidere di definire, per cui è importante spiegarlo, perché sennò sembra che un'emissione che ha fatto 18 miliardi di raccolto, una che ne ha fatte 8, una è andata bene, una era male, e invece dipende proprio dal tetto imposto dal Ministero dell'Economia. Grazie Pietro Poletto, a presto. Io non ho baciato e ha l'influenza pure lui, senti che voce, è quasi una voce tipo le nostre. Ma neanche io e lui ci siamo baciati, siamo pieni di bacilli nella stessa misura. Però voi restate con noi, perché parleremo dei rimedi per quando l'influenza ci, non è proprio l'influenza, insomma la cugina dell'influenza ci taglia le gambe, ci sono degli alimenti a portata di mano che potrebbero alleviarci un po' questo disagio. Tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, ripartiamo con la rassegna stampa di Cuore. Ieri si è celebrata la giornata mondiale dell'alimentazione e noi oggi vi proponiamo una fotografia degli anziani a tavola. Anziani alle prese con la crisi, la solitudine, il borsellino spesso troppo leggero per arrivare a fine mese, fattori che, come sappiamo bene, incidono sulle abitudini alimentari di tutti noi, ma in modo particolare su quelle degli anziani, cui pesano anche elementi di tipo culturale, di estrazione sociale, di salute e anche di autonomia di vita. Una realtà che viene ben fotografata da una ricerca promossa da Hauser e dalla Fondazione Di Vittorio e di cui ci dà un quadro il dottor Beppe Desario, che è ricercatore della Fondazione Di Vittorio. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi. In linea c'è anche il dottor Cesare Antonio Colombo, che è un medico nutrizionista. Buongiorno anche a lei, dottor Colombo. Buongiorno. A cui chiederemo un commento ragionato dei dati che il dottor Desario ci illustrerà per capire quali abitudini vanno conservate, quali invece modificate o abbandonate, perché siamo quello che mangiamo e questo vale per tutte le età. Dottor Desario, parliamo di una ricerca molto ampia, oltre 11.000 questionari distribuiti in tutte le regioni presso i centri sociali, le sedi sindacali, servizi fiscali e di consulenza. Nel complesso leggo che sono stati analizzati 7.241 questionari, insomma ci sono, devo dire, tutti i numeri per dare una fotografia dettagliata della situazione. Che cosa ci racconta? Esatto, i numeri sono considerevoli, questo grazie anche alla partnership con sindacatori pensionati, insomma, che è diffuso capillarmente sul territorio italiano, che ha potuto appunto raggiungere le persone anziane e sottoporgli il nostro questionario. Quindi un campione rappresentativo della popolazione over 65 italiana, e dal punto di vista, diciamo così, delle pensioni sono leggermente sottorappresentate le pensioni più alte, eppure questo non ha inficiato i risultati, anzi ha messo in evidenza come anche tra persone con pensioni basse o appena più dignitose possono esservi anche delle differenze considerevoli sia negli stili alimentari sia nei consumi stessi. Ci vuole fare un identikit, un profilo degli intervistati, persone coniugate, single, vivono in coppia con il proprio coniuge, sono vedovi? Sì, insomma, la rappresentazione appunto rispecchia le diverse condizioni degli anziani. In prevalenza sono coniugati o ancora coniugati, insomma circa due terzi dei rispondenti, un quinto circa sono vedovi, la metà circa vive ancora con il proprio coniuge, e una parte inferiore al 15% con il coniuge e i figli, e poi vi sono le persone sole, circa un quarto dei rispondenti. Quali sono allora, proviamo a sederci a tavola con i nostri anziani per capire quali sono gli alimenti preferiti, quelli che sono utilizzati con maggiore frequenza, parliamo di frequenza giornaliera, dottor Desario, naturalmente. Certo, appunto l'anziano medio, sottolineo medio, che emerge dall'analisi di questi 7.000 e oltre questionari, assume con una larga frequenza, insomma massima frequenza, alcuni gruppi di alimenti come latte, yogurt, cereali e derivati, pane ovviamente, frutta fresca, ortaggi e verdura, insomma che di per sé compongono una dieta diciamo equilibrata, quindi vengono assunti anche più volte al giorno da una quota dei rispondenti. Altri alimenti invece sono assunti con una frequenza settimanale ricorrente, quindi più volte a settimana, ad esempio formaggi, le carni fresche trasformate in legumi, con minore frequenza settimanale pesce e uova, e poi una serie di alimenti che gruppi di rispondenti non assumono mai. Ad esempio? In particolare le bevande alcoliche, le bevande gassate, quindi questo può essere di buon auspicio insomma per la salute delle persone. Sì, dottor Colombo, si comportano bene i nostri anziani? Ci dedichiamo gli ultimi minuti di questa prima parte di Cuore Denari proprio alle sue indicazioni per una dieta per l'anziano che deve essere caratterizzata dalla presenza di alcuni alimenti, altri non devono mai mancare. Dottor Colombo. Uguale a quella dell'adulto normale, semplicemente l'attività motoria o la sedentarietà è maggiore. Dottor Colombo, non possiamo sentirla perché non dobbiamo ripristinare magari l'audio, perché sembra che il dottor Colombo parli da una caverna lontano. Quindi, dottor Desario, chiameremo poi di nuovo il dottor Colombo per capire se ci sono delle indicazioni per i nostri anziani. Ma mediamente quindi la crisi può pesare, ma gli anziani hanno una dieta abbastanza equilibrata? Nel complesso sì, però appunto quando parliamo di anziani, persone over 65, parliamo di una popolazione molto diversa e articolata, in cui vi sono giovani anziani, mettiamola così, che hanno quindi anche consumi e stili alimentari, condizioni di salute simili agli altri adulti, e grandi anziani che invece hanno problematiche anche differenti. A questo si incrociano due elementi fondamentali che determinano un po' la qualità dell'alimentazione, che sono l'elemento relazionale, quindi l'isolamento, le persone che rimangono sole nel nucleo familiare a causa della vedovanza, ma anche per scarse relazioni sociali esterne, che vedono appunto uno stile alimentare più critico, mangiano da soli, mangiano in maniera più disordinata, riducono i pasti, e a questo si somma anche la condizione sociale e diciamo così relativamente il calo di condizione dovuto alla crisi, perché magari un anziano a medio-basso reddito che ha dovuto sostenere il proprio figlio o la propria famiglia, insomma, in cui vivono situazioni di disoccupazione, ha inciso poi anche sulla qualità e quantità della spesa alimentare. Certo. Quindi le persone che vivono da sole hanno una dieta meno varia e anche più povera, in altre parole se si è in due si mangia meglio. Assolutamente sì, sia per il reciproco stimolo. Esatto, la compagnia e anche perché si divide un po' la spesa. Questo sì, appunto però vanno sottolineate alcune situazioni più critiche, cioè il calo dei consumi dovuto alla crisi incide soprattutto su quegli alimenti che io credo, forse chiederà al dottor Colombo, dal punto di vista nutrizionistico sarebbe importante assumere con una maggiore frequenza. Se un terzo delle persone mangiano quotidianamente più volte frutta fresca e verdura, solamente il 10%, 15% li assume quotidianamente tra coloro che hanno risposto di aver diminuito i consumi. E certo, perché si operano dei tagli alla spesa, sì, e quindi si riflettono sulla salute, sulla dieta dei nostri anziani e anche sulla loro salute. Mi dispiace per il dottor Colombo che non era raggiungibile, noi andiamo a sentire il nostro GR e ci sentiamo subito dopo, parleremo di influenza e dei nostri bambini. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Cuore e denari. Deborah, vuoi aggiungere il tuo? Il nostro? Ma io è che non ho lo starnuto, io ho proprio la grattugia in gola e la tosse, infatti spero che non si senta, ma un pochino si sente. Io spengo il microfono, ma il tuo è acceso. Ed e poi mal di gola, i brividi, insomma non ci facciamo mancare nulla, sì. Perché questi sono alcuni dei disturbi che ci stanno colpendo in questi giorni a causa dell'abbassamento delle temperature. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta un inverno molto intenso. Previsione, tra l'altro, confermata anche dagli esperti, che ci dicono che quest'anno quasi 7 milioni di italiani saranno colpiti dall'influenza. Ma i numeri ci dicono tanto, ma non tutto. E a proposito di numeri, 800 24 00 24 per raccontarci come state iniziando la settimana. Nel frattempo io saluto e ringrazio il dottor Attilio Speciani. Buongiorno dottor Speciani. Buongiorno, ma quella ragazza là ha il dado un po' chiuso, eh? È vero, eh? Però infatti noi siamo in ottime mani, perché a lei e anche ai nostri amici che ci possono scrivere da casa suggerendoci il loro rimedio, chiediamo aiuto. Abbiamo pensato a lei, pensiamo sempre dottor Speciani a lei, ma oggi in modo particolare, perché facendo la nostra rassegna stampa ci è caduta l'occhio su una notizia che arriva dall'Inghilterra, e più precisamente dalle pagine del Daily Mail, dove uno chef, Sara Michelle, devo dire molto carina, una ragazza giovane, non ha nemmeno 40 anni, ma con un curriculum di tutto rispetto. Se volete andate a vederla sulle nostre pagine perché è molto interessante. Ha scritto una sorta di dieta antivirus, e allora ho pensato che anche noi dovremmo rispondere con una sorta di super classifica del dottor Speciani. Che dice, dottor, accetta la sfida? Sì, ecco. Allora, la sua concorrente propone aglio, patata dolce, cavolfiore, oltre naturalmente all'acqua che è essenziale per idratarci, non fa mai male, miele che in questa stagione vive il suo momento di gloria. E, d'accordo lei? Che cosa aggiungerebbe? Allora, assolutamente sì, ho qualche perplessità sull'aglio, solo perché poi in vita familiare può creare qualche disagio, però l'aglio ha una potente azione antivirale e antibatterica, e quindi proprio ci sono gli oli essenziali all'interno. La patata mi ha rubato, perché mi ho preparato un po' di cibi ad alto contenuto di vitamina C, la patata è una di queste. E lei dice patata americana. Cioè sì, patata americana ha comunque della vitamina C, sì. quindi siamo buoni, siamo cugini, come dire. Cavolfiore fa parte delle crucifere, è una delle sostanze più importanti, magari dopo ne discuto un istante, perché ha una valenza anche antinquinamento potente, e la gente non lo sa, ma il miele contiene la famosa aspirina, cioè non c'ha dentro l'aspirina, però dentro dei salicilati naturali che sono molto simili, quindi direi che per ora ci siamo. Dai, Sara è andata bene, però poi lei deve dare il suo tocco da maestro. Comunque la Sara, la bella chef inglese, aggiunge il classico brodo di pollo, quello delle nostre nonne, il brodo d'ossa. Sì, fa un po' rabbrividire. Vero, sembra un po' un intruglio da strega. Che cosa hanno di interessanti queste? Dunque, la cosa è carinissima. Una delle cose più importanti quando si vuole contrastare un virus o una forma influenzale è di idratare le persone. Allora, in questo momento, lì ad esempio Deborina, che la sento con il nasetto chiuso, come si diceva, probabilmente non ha molto voglia di bere l'acqua fredda. Anche la gola che gratta. Mamma mia. Esatto, e allora il brodo di pollo in realtà è molto digeribile, porta delle proteine che hanno un'azione di stimolo importante sul sistema immunitario, quindi senza dire, poi tanto quando uno fa il brodo di pollo ci mette lo stesso dentro anche le ossa delle coscette del pollo piuttosto che altro, e quindi basta dirlo in Italia, dire fare il brodo d'osso giusto richiama stregonerie strampalate. Mi piace ricordare che dal punto di vista dell'etnomedicina il brodo di pollo è il farmaco più utilizzato al mondo, cioè viene considerato farmaco in moltissime medicine tradizionali proprio perché ha questa capacità di ritirare su. Proteine facilmente assorbibili senza sovraccaricare, quindi il sistema immunitario reagisce in modo più positivo. Dottor Speciani, arriva un messaggio da Damiano da Roma, che è un nostro fedele ascoltatore, ci scrive spesso. Che dice il vostro esperto per i rimedi di erboristerie omeopatici? Funzionano anche per i bambini? Qua si apre il quadernone, il mondo, l'universo mondo, come dice Deborah. Dottor Speciani. Allora, in bilanciamento nel rapporto con il medico e con le sue convinzioni e con la sua esperienza sono utilizzabili e spesso sono utilizzabili in modo efficace, quindi do un parere positivo purché sia sempre un medico che li gestisce e li indica, questo è l'elemento di riferimento. E poi però ci aggiungo un altro pezzo, perché prima mi hai stimolato col cavolfiore. Ci sono delle chicche che ci lasciamo indietro, perché tutti sanno che ci sono le arance, le patate, i peperoni, i kiwi che contengono la vitamina C e che quindi bisogna farne un po' man bassa. Io faccio il tifo per il broccoletto, che poverino ha un contenuto di vitamina C altissimo, ma ha questa capacità di aiutare assolutamente la difesa da tutti i composti, ad esempio legati allo smog, legati all'inquinamento, legati al traffico, legati alle caldaie. Quindi io lo uso. Un broccoletto è anche anti-inquinamento, dottor Speciani. Ci aiuti dando anche qualche consiglio di cottura per evitare di perdere con cotture troppo lunghe e prolungate il patrimonio di vitamine e di sali che è proprio quello che rende la frutta e la verdura in questo caso in modo particolare, un alleato della nostra salute. Io sono molto drastico e dico che anche, soprattutto d'inverno, bisogna comunque affidarsi alle sostanze crude, cioè cercare di mangiare sostanze crude il più possibile. Siccome fa freddo, allora la cottura a vapore porta a non superare i 120 gradi di riscaldamento e questo quando mantieni le verdure palatabilità croccante, per cui le senti che sono ancora dure, non sono sfatte come dopo 8 ore di bollitura, in realtà abbiamo conservato anche tutta una serie di cose buone per le vitamine che ci servono, per i minerali indispensabili. Quindi bene consumarle al dente, croccanti. Fantastico. Renata da Brescia, dottor Speciani, una telefonata per lei. Renata, buongiorno, benvenuta. Buongiorno e grazie mille di avermi chiamato. E senta, mia figlia ha circa 40 anni, è la sua prima gravidanza, però in realtà già perso un bambino, quindi è molto molto attenta a cosa è solo la 12ª settimana e vorrebbe, siccome ha tantissima tosse, catarro, mal di gola, come voi ben sapete, perché ho sentito anche la Deborah è conciata, esatto, è colpa mia, però è proprio per non farle diventare bronchite, questo brutto catarro. Certo, Renata, messaggio ricevuto, perché la gravidanza è un momento molto particolare in cui la mamma deve stare molto attenta ad assumere dei farmaci. Dottor Speciani? È una delle indicazioni specifiche in cui con alcune sostanze naturali e con alcune fitoterapeutici davvero si può aiutare e assistere in una situazione come quella della gravidanza. Ci sono tra l'altro dei siti che spiegano molto attentamente quali sono i prodotti che possono essere o non essere utilizzati, però quello che abbiamo detto adesso, quindi broccoletto, aglio, il miele stesso è una ricchezza di vitamina C. E lo dico, a volte anche un minimo di cambio di alimentazione, cioè se uno è abituato sempre a mangiare pane e formaggio, magari se in realtà mangia qualche galletta di riso e cambia il tipo di proteine, si aiuta. Cioè questo fa parte di un modo per ridurre l'infiammazione, cioè, ne abbiamo parlato tante volte insieme con voi, e quindi anche questo tipo di aspetto è rilevante. Però quello che abbiamo detto è il riposo e l'idratazione, sono tra gli elementi fondamentali per riuscire a contrastare queste cose. Due suggerimenti arrivano dai nostri ascoltatori. Il primo è cuocio a vapore, poi bevo il brodo di caduta, tra virgolette, ci scrive Cristina, se ne giovano pelle e intestino. Dottor Speciani. Concordo pienamente, nel senso che prima, mentre dicevo di cuocere le verdure tenendole al dente, poi lo scopo è quello che uno utilizza quell'acqua anziché buttarla nel lavandino e rendere il sistema immunitario del lavandino fortissimo, lo utilizza, non so, per cucinare il risotto, per fare qualcosa in modo da riutilizzare le stesse vitamine in modo adeguato. Lucio da Milazzo, anche lui, Debora, è un nostro affezionato ascoltatore, ci scrive che non ha raffreddore o influenza da quando era bambino, lui, nessuna dieta, lui usa molto peperoncino e la salsa di pesce. Allora, il peperoncino è trampato, che è una delle cose più ricche più ricco di vitamina C che ci sia, e quindi sta bene. In più ha un'azione immunologica. E io gli direi, e perché ti fermi lì? Anche lo zenzero, anzi questo lo dico direttamente a Deborina, che è lì, che lo so, lo sento, dico che una ancora ottimo, ci sono. Ad esempio, ancora un po', sì, direi, un centrifugato di zenzero mischiato con un po' di kiwi, aumentando la quantità di zenzero, ha un'azione importantissima di stimolo e quindi ti può aiutare sicuramente a sbloccare. Quindi non solo il peperoncino ma anche lo zenzero, bisogna modulare, non si può dare a un bambino che non ha mai mangiato il peperoncino quintale di peperoncino, quindi però, attenzione, perché alcune sono spezie e a volte fanno prudere nei posti sbagliati, come si dice. Quindi latte e miele, e chiudiamo con il suggerimento, un classico che ci manda Lidia da Bergamo. Dottor Speciani, dottore? Latte e miele. No, latte e miele. Ah, ce lo suggerisce. Miele, questo è il suggerimento. Sì. Ho detto, il miele ha una fondamentale azione perché è dentro dei salicilati naturali, oltre a un mucchio di sostanze stimolanti per il metabolismo. Ma se lo metto nel latte caldo, dottor Speciani, cosa succede al miele? Da vecchio alpino, poi alla sera ci mettevo anche un goccio di cognac nella vecchia tradizione, bisogna evitarlo assolutamente, però fa parte di un qualcosa che ti riscalda e che ti fa andare a dormire, soprattutto ti porta a facilitare il riposo alla sera, perché il latte contiene delle sostanze naturali che migliorano la capacità di riposare a fondo, quindi abbiamo detto prima, idratazione e effettivamente riposo sono poi gli elementi che aiutano l'organismo a recuperare spontaneamente anche di fronte ad una virosi. Stanno arrivando un sacco di messaggi, Debora, ti curo. Vedo, con acqua, limone, zenzero e curcuma. Una coccola da fare anche alla Debora. E poi ridere, perché il riso aiuta, ci sono delle ricerche straordinarie su questo aspetto, ne abbiamo parlato proprio anche con il professor Remuzzi nel suo libro del Siamo Geni, e un atteggiamento positivo dovrebbe renderci più resistenti anche nei confronti dell'aggressione dei virus. Dottor Speciani, venga presto a trovarci. Assolutamente sì, con vivo piacere, e anche io sono preparato, quindi anche se, ecco, se venga a prendersi l'influenza da noi. Ecco. Venga a prendersi l'influenza da noi. Buona giornata. Buona giornata. Dopo l'influenza parliamo di alcuni gesti e abitudini che possono influenzare i comportamenti dei nostri figli, danneggiare la loro salute. Fumate? Restate a fumare vostro figlio? Restate assolutamente. Avete smesso? Perché no? Proponetevi allora come coach. 800 24 00 24. Sigarette la mattina, la la la la la la la. E sì, nel bene e nel male i gesti, le azioni, i comportamenti degli adulti vengono presi a modello dai più piccoli, comportamenti che si riflettono anche naturalmente sulla salute nel breve e nel lungo termine. Questo è quello che emerge dal secondo congresso nazionale della Società Italiana per le malattie respiratorie infantili, dove si è visto che un bambino su 5, pensate, cresce in una casa in cui è consentito fumare, e quindi povero ragazzino è costretto a subire il fumo passivo. Ma c'è di più: questo tipo di comportamento incentiverebbe gli adolescenti ad accendersi la prima sigaretta, e lo sappiamo bene, lo sappiamo per esperienza, chi inizia presto accumula anni di dipendenza. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Renato Cutrera, che è presidente nazionale della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili e direttore dell'unità operativa di broncopneumologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, un ospedale amico di Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno professore. I professori cadono oggi, cadono come delle mosche. Allora, influenzate o ce l'abbiamo noi. Dove è andato a finire il nostro esperto? Intanto, se volete, intanto per la signora incinta, ci scrive un ascoltatore, il rosolaccio composto. Olà. Ecco, di che cosa si tratta? È un'indicazione che ci arriva da un ascoltatore di Roma, e da Roma dovrebbe arrivare anche il nostro esperto, ma non arriva. Va bene, quindi noi siamo qua, ma l'indicazione che volevamo è gettonatissimo, è gettonatissimo per tutte, per fresco, tutti grattugiato, i rimedi, esatto. Io lo metto anche nelle patate al forno. È vero, me l'hai detto tante volte, ed anche è buonissimo. Quella ricetta là. Professor Cutrera, dove era finito? Buongiorno. Eccoci, mi ero nascosto. Mamma buongiorno mia. Nicoletta, buongiorno, buongiorno Deborah. Buongiorno, professore. Allora, professore, io ho anticipato un po' i risultati a cui siete arrivati con questo importante convegno. I bambini vivono in case dove i genitori fumano e quindi inevitabilmente si respirano il fumo dei loro genitori, ma poi dai genitori prendono anche esempio. Certo. E quindi poi ci lamentiamo che i giovani italiani sono quelli che accendono la prima sigaretta più prima degli altri a livello europeo e accumulano anni di dipendenza e quindi nel breve e nel lungo periodo hanno dei danni sulla salute. Assolutamente. Partiamo da qua, professore. Sì, guardi, innanzitutto in Italia si fuma di meno, grazie alle campagne del Ministero della Salute. Gli italiani non sono affatto stupidi, hanno capito che erano delle misure per la loro salute, in effetti si fuma molto di meno. Ora però si fuma ancora troppo, perché il 25-30% della popolazione, soprattutto i giovani, fumano ancora. E allora questo significa che sicuramente nelle fasce dei giovani che hanno dei bambini ci sono molti fumatori, quindi ci sono bambini che sono esposti ancora al fumo passivo e oltre al fumo passivo diretto che i genitori cercano di evitare ovviamente, ci sono anche i problemi del fumo di terza mano, certo. Ossia quel fumo che rimane nelle case, rimane nelle tappezzerie, rimane nei vestiti dopo che il fumatore ha fumato, il bambino viene preso in braccio e lo inala. Questo è il problema di base dei danni diretti del fumo di seconda e terza mano, diciamo, sui bambini. E poi, come lei giustamente ha detto, c'è l'esempio, cioè nel senso è dimostrato che più spesso i figli dei fumatori cominciano a fumare a loro volta. E allora ecco che magari dire a una mamma, una neomamma, guardi signora che lei già fa molto per suo figlio e ha fatto moltissimo, se riesce non solamente a non fumare in casa in macchina, ma se riuscisse a smettere, lei darebbe una chance in più al suo bambino di non diventare fumatore a sua volta. Dottore, tenendo conto che il fumo passivo rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie a carico del nostro sistema respiratorio, dico nostro, degli adulti, ma in modo particolare è anche pericoloso per la salute dei bambini, quanto forse l'inalazione diretta. Ci sono dei dati molto interessanti che emergono dal vostro convegno, i dati ci dicono che aumenta del 43% il rischio di asma, una malattia che lo sappiamo bene è in crescita, che colpisce il 10% degli italiani con meno di 14 anni. Dottore, guardi, forse questa potrebbe essere un'occasione buona per dire, come hanno fatto tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, è nato un bambino, ho smesso di fumare. Facciamolo per i nostri figli, dottore. Bravissima, bravissima. Questo credo che sia il messaggio più importante. Quello che non si fa a volte per noi stessi, riusciamo a farlo per i bambini e perché no? Anche per i nostri nipotini, se ci sono dei nonni all'ascolto, spesso e volentieri i bambini vengono portati ancora piccoli dai nonni che aiutano, sia dalle nonne. Mi raccomando, fate crescere il vostro nipotino in un ambiente senza fumo e se possibile smettete anche voi, perché questo fa bene alla vostra salute e all'esempio che date al vostro nipote. E voi avete deciso di dare un calcio al fumo. Sì, è una bellissima iniziativa, è rivolto un progetto ai bambini di quarta e quinta elementare, agli studenti anche di prima e seconda media inferiore, per prevenire il precoce approccio al fumo di sigaretta. E voi giocate sulla prevenzione, speriamo che di riuscire a fare gol. Speriamo proprio di sì. Abbiamo fatto dei nostri medici sono andati in alcune scuole qui a Roma l'anno scorso, a Torino il prossimo anno, a Napoli, a fare informazione agli insegnanti. Poi gli insegnanti hanno lavorato a loro volta con i ragazzi, che hanno prodotto materiale informativo e video molto molto carini rivolti ai loro coetanei, quindi facciamo parlare coetanei con coetanei. E poi c'è una manifestazione in cui ci sono 10 campetti di calcio e ci sono davanti alle porte dei birilli fatti a forma di sigaretta e i ragazzi devono, in un modo non competitivo, diciamo, buttare giù questi birilli e si gioca per classi. Abbiamo avuto come testimonial della manifestazione gli allenatori, l'anno scorso c'era Allegri della Juventus, quest'anno hanno mandato un videomessaggio sia Spalletti che Inzaghi, a Napoli avremo l'allenatore del Napoli sicuramente, speriamo, e poi così via. Il problema chiaramente è riuscire a essere capillari e certo. vorremmo mandare questo programma con un DVD in tutte le scuole, cioè, d'Italia. Speriamo di riuscire a trovare i finanziamenti, perché tutte queste cose sono fatte solamente con i nostri, diciamo, con le nostre disponibilità. Speriamo, mandiamo questo appello, speriamo che qualcuno lo raccolga. Un'ultima domanda che arriva da un ascoltatore, dottor Cutrera: il fumo passivo della sigaretta elettronica è dannoso? Probabilmente un genitore che ha smesso di fumare la sigaretta classica e l'ha sostituita con l'elettronica. Può in qualche modo riparare i nostri bambini? Velocissimamente, la sigaretta elettronica va bene solo se in mani consigliate da un medico, come prodotto per cercare in un fumatore di farlo diminuire e farlo smettere, quindi è un presidio medico. Evitate il fai da te, non sappiamo cosa c'è in certi contenitori, in certe sostanze che vengono messe, a volte possono essere anche nocive per la salute. E ultimo punto, attenzione, perché in Italia gli adolescenti spesso iniziano con la sigaretta elettronica e poi passano alle sigarette ordinarie. Quindi questo, diciamo, ampio diffondersi della sigaretta elettronica preoccupa moltissimo i medici. Laura ci chiama da Verona. Buongiorno Laura, benvenuta. Chiudiamo con una bella testimonianza che renderà contento anche il dottor Cutrera. Laura? Sì, buongiorno. Buongiorno Laura. E anche il professor Boffi. Io ho smesso 12 anni fa. Però non ce la facevo da sola e quindi ho dovuto farmi aiutare. Non ce la facevo perché io fumavo veramente molto, fumavo quasi 2 pacchetti al giorno, insomma. E quindi sono andata a medicina delle dipendenze e lì ho smesso felicemente al primo colpo. Brava Laura, questo è un messaggio forte e chiaro che deve arrivare un po' a tutti. Se non ce la fate da solo, fatevi aiutare, ci sono le possibilità di farlo, ci sono i centri antifumo, nell'elenco l'elenco lo trovate anche sulle pagine di Cuore Denari. Dottor Cutrera, insieme si vince. Abbiamo fatto un accordo con AIPO, che è l'Associazione Italiana degli Pneumologi dell'Adulto, e che tengono i centri antifumo, come lei giustamente ha detto, e con l'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità sulle dipendenze. E cosa vogliamo fare? Vogliamo fare, insieme con i pediatri di famiglia, che venga detto ai genitori, ancora sì fumatori, ma ancora senza sintomi, perché i sintomi arriveranno a 40-50 anni, e digli: guardate signori, che se volete smettere per amore del vostro bambino, noi possiamo indirizzarvi, e possiamo indirizzarvi ai centri che in ogni provincia ci sono antifumo. Grazie, grazie al dottor Cutrera, grazie alla testimonianza di Laura. Potete continuare a scriverci per raccontarci le vostre storie. Vi ricordo ancora che stiamo scrivendo il diario collettivo con le storie delle donne che hanno incontrato il tumore al seno nel mese dedicato alla prevenzione di questo tumore, ma anche chi ha accompagnato donne che l'hanno incontrato, i loro compagni, i fratelli, le amiche, i colleghi. Quindi continuate a scriverci e adesso... Se ce la faccio, c'è la borsa e anche la seconda parte della trasmissione con l'approfondimento di Denari. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e Denari. Sono da 50 anni cliente di una grande banca italiana. E in questi anni sono transitati sul mio conto solo gli stipendi e la pensione, quindi movimenti assolutamente tracciabili. Con sacrificio ho messo da parte qualche risparmio esclusivamente investito in obbligazioni. Le cedole rappresentano per me una specie di pensione integrativa. Alcuni investimenti sono giunti a scadenza e il capitale mi è stato accreditato in conto corrente. La banca si è subito attivata per farmi reinvestire l'importo in diversi strumenti finanziari, ma io... preferisco mantenere i soldi in conto corrente, non voglio espormi in investimenti avventati. Ho deciso di prelevare 150.000 euro in contanti, dopo aver comunque lasciato un congruo importo sul conto. La mia richiesta è stata accolta con un certo stupore dalla banca, che si è attivata per soddisfarla, facendomi però presente che sarei andata incontro a tutta una serie di problemi, dall'accertamento fiscale alla multa da parte dell'Agenzia delle Entrate e tutto quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Io non ho nessuna intenzione di utilizzare questo denaro per nessun tipo di attività, Vorrei semplicemente metterlo sotto il materasso in attesa di tempi migliori. Ma mi hanno spiegato che anche reimmettere il denaro in banca comporterebbe delle sanzioni. È vero tutto questo? E noi lo chiederemo al nostro ospite di questa mattina. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi, Nicola Forte, consulente tributario, esperto per il Sole 24 Ore delle tematiche fiscali. Forte, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Si è studiato per tutto il weekend la legge di bilancio per noi, perché un paio di punti che ci interessano, ce ne sono tanti che ci interessano, noi li approfondiremo nel corso di tante puntate di Cuore e Denari, ma stamattina anche su questo, in qualche maniera ci sono degli aspetti legati alla mail che ci ha inviato questa ascoltatrice. Nicola, allora, torniamo su questo tema, non solo per la mail dell'ascoltatore, cioè della tenuta di denaro contante in casa, in cassette di sicurezza, in altre forme appunto di questo tipo, perché il governo starebbe accarezzando l'idea di una voluntary disclosure domestica. Un rientro dei la voluntary disclosure è tutto quel meccanismo di rientro dei capitali dall'estero, agevolato da ovviamente un incentivo fiscale, ma ci sarebbe anche una denuncia di tutto ciò che viene detenuto in casa o in cassette di sicurezza, come dicevo, e non viene cristallizzato agli occhi del fisco. È vero che c'è qualcosa in questo senso nella legge di bilancio che è stata varata sabato, perché in realtà poi a rileggere se ne è parlato molto alla vigilia del varo della manovra Forte, ma poi da quello che ho capito leggendo tra ieri e oggi i giornali, forse un po' questa parte si è edulcorata, mi sbaglio? Sì, o perlomeno sembra se ne siano perse in parte le tracce. In realtà alcuni giornali ne danno notizia. Dobbiamo essere prudenti, leggere il testo ufficiale del decreto legge, perché buona parte di queste disposizioni fiscali saranno contenute in un decreto legge, comunque vedremo, e se il tutto fosse confermato, questa misura soddisfa proprio questa esigenza. Se io ho del denaro contante di ingente ammontare, questo denaro contante è difficilmente spendibile. Ecco, faccio un esempio concreto: ho 200.000 euro, voglio comprare un box out, un garage. Se vado dal notaio non posso pagare l'acquirente con denaro contante, c'è un problema di antiriciclaggio. Quando esco allo scoperto il fisco mi può chiedere da dove proviene questo denaro, e quindi questa voluntary bis, cosiddetta domestica, serve proprio per sistemare queste posizioni. Quindi, tornando alla mail dell'ascoltatrice che abbiamo letto prima, allora il fatto che lei abbia prelevato 150.000 euro dal suo conto corrente e abbia deciso di in maniera figurativa metterli sotto al materasso, in realtà, ecco, questo atto di per sé obbliga il fisco ad accendere un riflettore sulla posizione di questa signora o no? No, non immediatamente. Allora, iniziamo a fare chiarezza. Il limite dell'antiriciclaggio è 3.000 euro. Qui sto prelevando, non sto trasferendo denaro contante. L'ABI, il Ministero delle Finanze hanno chiarito espressamente che io posso andare in banca e prelevare qualsiasi somma di contante, anche eccedente a quel noto limite che noi conosciamo, 3.000 euro. E poi dobbiamo anche considerare che il fisco ha assolutamente chiaro il fatto che io su quel conto corrente ho 150.000 euro e più, perché le banche devono annualmente comunicare all'Agenzia delle Entrate il totale degli addebiti, il totale degli accrediti e il saldo sul conto corrente. Quindi il mero prelevamento di per sé non configura nessun illecito, nessuna violazione fiscale. Il problema è come utilizzerò queste somme. Quindi diciamo che praticamente la banca, secondo noi, avrà spiegato questo aspetto all'ascoltatrice, che forse non ha capito fino in fondo esattamente appunto la spiegazione data dalla banca. Ecco, che tipo di transazioni sarebbero poste sotto i riflettori del fisco se l'ascoltatrice utilizzasse diversamente questi 150.000 euro, appunto? Li tiene in contanti, ma poi magari appunto acquista il famoso box che diceva prima. L'acquisto del box è oggettivamente impossibile, perché è un atto notarile e quindi il notaio è obbligato, in base alle disposizioni antiriciclaggio, a indicare nell'atto i mezzi di pagamento. si può pensare al fatto che io questi 150.000 euro che sono mantenuti, conservati sotto il materasso, vengono progressivamente spesi nel corso del tempo per effettuare piccoli acquisti in nero, per pagare, per corrispondendo compensi in nero, ma non necessariamente questo configura una responsabilità del soggetto che paga. I problemi maggiori sono per coloro che ricevono i soldi in nero, quindi potrei essere, certo, destinatario di una richiesta di chiarimenti da parte del fisco, ma non di una responsabilità diretta. Forte, non certo il materasso, ma cassette di sicurezza, casseforti. Se una persona tiene un plico di banconote in banca, la banca non è tenuta a comunicare a nessuno il contenuto in banca, nel senso in una cassetta di sicurezza presso una banca. In questo caso l'intermediario non ha nessun obbligo. Allora, se invece del materasso, appunto, l'ascoltatrice li sottrae al conto corrente per metterle in una custodia fisica. Certo, la banca non conosce i contenuti, perché io, è vero, si accede con una doppia chiave, ma nella cassetta posso materialmente accedere e depositare solo io. La banca ha un obbligo, deve comunicare annualmente, anche in questo caso all'Agenzia delle Entrate, il numero delle volte che io accedo alla mia cassetta di sicurezza. Immaginiamo che io accedo in un anno 100 volte. È un comportamento perlomeno sospetto, ma c'è da 1, 2, 5, 100, in ogni caso la banca lo deve comunicare all'Agenzia delle Entrate. Chiarissimo. Allora, gli italiani preferiscono ancora le banconote fruscianti alla carta di credito al bancomat, lo abbiamo detto un miliardo di volte, abbiamo fatto tantissime puntate su questo aspetto. I dati più recenti dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, dicono che con appena 30,1 operazioni pro capite l'anno siamo agli ultimissimi posti in Europa nei mezzi di pagamento alternativi al contanti, seguiti solo da Bulgaria, Grecia e Romania. Forte, in pochi secondi, poi abbiamo la pausa, poi vorrei andare anche alla questione dell'abolizione di Equitalia. Ricordiamo quali sono le misure antiriciclaggio e lotta alla circolazione di contanti attualmente in vigore? Certo, allora, in primo luogo è posto il divieto di trasferire denaro contanti a favore di soggetti diversi in misura pari a 3.000 o superiore a 3.000 euro, indipendentemente dal titolo, sia che acquisti della merce, sia che effettui una donazione, sia che paghi un compenso professionale. E qui è l'eventuale trasferimento di denaro contante, appunto, oltre queste soglie configura una sanzione diretta. Poi torno un attimo al caso del nostro ascoltatore, perché c'è il problema della cosiddetta segnalazione dell'operazione sospetta. In sé il prelevamento di denaro contante superiore a certe soglie non è una violazione, ma se la banca vede che io effettuo un numero eccessivo di operazioni in contanti o prelevo denaro contante di un ammontare molto elevato, ha facoltà di fare una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, quindi anche questo comportamento, certo, deve essere attenzionato. Allora, io vorrei segnalare ad Adele da Brescia, poi vediamo se magari possiamo metterla in linea, lo chiedo ai nostri ragazzi appunto in redazione. Soldi messi in cassetta di sicurezza, cosa deve fare? Non deve fare nulla, Adele, nessuno le dice nulla, naturalmente, come dicevamo poco fa, forte, magari ribadiamolo. Adele ce l'abbiamo già. Adele, benvenuta, le faccio fare veloce. Di avermi accettato. Io allora, mio marito, dopo una forte delusione dei bond argentini parecchi anni fa, ha tolto tutto dal conto, che tra l'altro era stato il direttore di banca a suggerirgli, e dopo due mesi abbiamo perso parecchi soldi. Mio marito, appunto, molto deluso, li ha messi nella cassetta di sicurezza, ma togliendoli dal conto bancario, e appunto un impiegato bancario ci ha ce li ha procurati in contanti, ci ha aiutato a portarli giù le cassette di sicurezza. Sì. Da allora, diciamo, stanno lì tranquilli. Sono in cassetta. Adele, al caldino. Allora, stanno al caldo, non si deve preoccupare di niente. Il fisco accenderebbe un riflettore su di lei, come dicevamo prima, solo se lei facesse chissà quante operazioni di apertura e chiusura di questa sicurezza, e in questo caso la banca, no forte, ribadiamolo, sarebbe tenuta a segnalare all'amministrazione fiscale un comportamento teoricamente un po' sospetto. In caso contrario, Adele può star tranquilla, può stare in una cassetta di sicurezza. Assolutamente, anche se il fisco gli domandasse, ma quel denaro che tu spendi, che proveniente? e io lo dimostro facilmente, perché con un prelevamento avevo sul conto 100.000, ho svuotato il conto e i soldi sono andati in cassetta di sicurezza. Il traffico, tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Cuore e denari. Dracula, Dracula, vampiro dal nero mantello. Ti è piaciuta questa? Sì, Marco, te l'aspettavi? È straordinario, dove l'ha trovata? Ma che ne so, guarda, se ne inventano una al giorno questi qua. Allora, perché abbiamo introdotto Dracula con i vampiri? Perché naturalmente se ne è inventata un'altra. Il nostro premier Matteo Renzi, parlando della legge di bilancio nella sua newsletter, i News, ha scritto: la lotta all'evasione ha raggiunto nel 2015 il record di tutti i tempi con quasi 15 miliardi recuperati, ma lo facciamo senza il modello punitivo del passato che puntava su un sistema vessatorio, cioè Equitalia. Per noi il cittadino va coinvolto prima, non stangato subito. Dopo i gufi, insomma, facciamo i conti anche con i vampiri. Nicola Forte. E allora in questa maniera abbiamo introdotto l'altra grande misura, quella che ha creato veramente più discussione di tutti, che è contenuta nella legge di bilancio, l'abolizione del sistema della riscossione di Equitalia. Chissà come verrà riorganizzato il sistema poi appunto di riscossione delle tasse, soprattutto di quelle che vengono pagate con ritardo. Detto questo, sono 100 miliardi di euro l'ammontare delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia, appunto, alle quali potrà essere applicata la cosiddetta rottamazione prevista dal decreto varato sabato appunto nella legge di bilancio. Lei come la configura nella sua testa questa abolizione di Equitalia? Verso quale sistema andremo, Forte? Ma diciamo in un sistema probabilmente orientato più al dialogo con i contribuenti, come in realtà già negli ultimi anni è avvenuto. Ricordo che in passato il contribuente trovava scritta un'ipoteca su un immobile senza neppure saperlo. Poi è cambiata la norma, è cambiata la legge, è necessaria una comunicazione preventiva e quindi probabilmente si andrà sempre più verso questa direzione. Io leggevo delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, probabilmente ci sarà un SMS, un alert. Esatto. L'SMS che si chiama Operazione Semiscordo. SMS sta per questo, non short message. In pratica il fisco avviserà i cittadini che la scadenza della rata si avvicina, però il contribuente dovrà autorizzare il fisco ad avvertirlo, per cui poi lì si aprirà, immagino, un altro circo del quale parleremo a tempo debito, Forte. Però insomma un fisco sempre più dal volto umano, come quello che vuole Rossella Orlandi, capo dell'Agenzia delle Entrate. Non dobbiamo pensare ovviamente che non ci sarà chi riscuoterà le imposte, soprattutto continueranno a esserci le cartelle di pagamento, voglio dire, perché c'è anche chi per difficoltà o per altre ragioni non versa, qualcuno potrebbe disinteressarsi del messaggino e quindi c'è sempre una fase ovviamente esecutiva. Tutto ciò non potrà sparire. Fino a che punto secondo lei il meccanismo sanzionatorio per chi paga in ritardo, non paga mai, appunto, verrà ridimensionato? Dobbiamo capire, dovremo leggere il decreto, perché si parla appunto dell'abolizione, si è fatto riferimento all'abolizione degli interessi moratori e addirittura anche il compenso della riscossione, in sostanza di quelle somme che nel corso degli anni, soprattutto per le cartelle più vecchie, hanno determinato un incremento quasi esponenziale e non delle sanzioni. Poi altri giornali invece oggi facevano riferimento a una cancellazione anche delle sanzioni. Poi un altro tema aperto è quello delle multe relative alla circolazione stradale, perché se il decreto dovesse essere limitato ai tributi, quelle multe non sono tributi e quindi rimarranno fuori. Qui dovremo leggere. Quindi la moltiplicazione delle sanzioni come i pani e i pesci avverrà come prima, come nel precedente sistema. Qui dovremo leggere il decreto. Avremo tante puntate da fare insieme a lei, Nicola Forte, da qui a gennaio. Immagino insomma tanto lavoro per i nostri esperti fiscali. Intanto vorrei tornare al tema precedente, perché Nicoletta lo sa, perché su WhatsApp è esploso come al solito il tema delle iniziative con il contante. La gente insomma contesta ogni meccanismo di controllo della gestione del proprio denaro e tutti naturalmente richiamano un'immagine molto autoritaria da parte dell'atteggiamento appunto del governo. Detto questo, sentiamo Luca da Roma. Luca, benvenuto, poi Nicoletta. Grazie. Ne leggiamo un paio perché volentieri ce la facciamo. Sì, Sì, Luca. Buongiorno, io volevo dire una cosa, premetto che sono uso la carta di credito sempre da almeno 20 anni, posso Bene. Dire, quindi la trovo comodissima e sono assolutamente a favore, sia per la sicurezza, la possibilità di controllare il conto e il fatto che si impedisce alla gente di fatturare in nero senza scontrino, eccetera. Però c'è un problema, se voi intendo il governo, sì, scusate, sì, intendete impormi l'uso della moneta elettronica, mi costringete ad avere un conto corrente. Mm. Allora, se io ho, diciamo l'esempio di prima, 150.000 euro e ho su un conto corrente che tengo ma non ho voglia di investire e di correre nessun rischio in borsa, sono costretto però a subire le regole del bail-in. Allora è scandaloso che noi siamo costretti a usare la banca, un conto corrente e la moneta elettronica, però al tempo stesso non ci siano delle banche che siano assolutamente al riparo dal bail-in e mi permettano di avere un conto dove io voglio il deposito e voglio la sicurezza di avere i miei soldi là. Beh certo, allora diciamo che la sicurezza dal bail-in è data dai coefficienti patrimoniali che una banca deve rispettare. Nicola Forte, sì, non ha tutti i torti il nostro ascoltatore, detto questo può bypassare i limiti imposti appunto dal bail-in spezzettando l'importo in due banche, qua si moltiplicano i costi naturalmente, allora qua richiamiamo un altro problema. Nicola Forte? Sì, certo, ovviamente ho anche il conto cointestato, perché per il conto cointestato non ho 100.000 euro ma ho 200.000 euro di copertura per il bail-in. Sì, è ovvio, nel senso che se ne faccio un uso non particolarmente spinto della carta di credito o altri degli strumenti di tipo elettronico, posso tenere comunque tutto su un unico conto corrente entro il limite per coprirmi dal bail-in, e diversamente l'unica soluzione è lo spezzettamento con moltiplicazione dei costi. Purtroppo però insomma non andiamo a complicarci la vita, se uno si comporta regolarmente e non fa 1000 operazioni sospette su un conto e il fisco sa dove deve andare a controllare, perlomeno io la penso così. Maila ci scrive: anni fa misi una considerevole somma sotto il materasso, ho avuto un grosso incendio nel mio appartamento e si è bruciato tutto, ecco il rischio di tenere troppo contante o in tasca perché ti rubano il portafoglio, la carta di credito, quantomeno puoi bloccarla. Un messaggino volante, Nicoletta? Allora, con tutti questi controlli, ci scrive Roberto, abbiamo ancora 100 miliardi di euro sottratti al fisco, esatto. Questa è la domandona di oggi. Esatto, infatti ci apriremo un altro dibattito con Nicola Forte, un altro ascoltatore chiedeva, forse c'è ha trasferito del denaro. Ah sì, da segnalare perché ha risposto correttamente alla domanda sul BTP Italia, c'era poi un altro ascoltatore che ci chiedeva, ho fatto del trasferimento di denaro per pagare gli studi all'estero di mio figlio, se lo può dimostrare non corre nessun pericolo. Grazie Nicola, presto, buona giornata, noi torniamo domani, buona giornata a tutti.